Allora, Albert Einstein è l'uomo del secolo. È l'uomo del secolo sia al secolo finito 9 giorni fa o debba prolungarsi nell'indifferenza generale per altri 347. Lo ha deciso dedicandogli l'ultima copertina di dicembre o la prima di gennaio, non saprei, la rivista Time, che da sempre incorona uomo dell'anno e questa volta non ha potuto fare a meno di allargarsi un po'. Il motivo di tanto onore è abbastanza evidente. Einstein, ci hanno spiegato per l'occasione, è l'uomo che più di tutti ha cambiato il mondo in cui ci tocca vivere. Secondo Adam Pice, che è uno dei suoi biografi, dopo di lui il mondo non è più stato lo stesso. A detta di Stephen Hawking, noto scienziato, nessun scienziato rappresenta il progresso tecnologico meglio di lui. E come spiega, per finire, Walter Isaacson, direttore della rivista, direttore di Time, indirettamente la teoria della relatività aprì la strada a un nuovo relativismo nella morale, nelle arti e nella politica. Dopo le scoperte di Einstein, si è come affievolita la fede nell'assoluto. Ecco, io non ho la competenza per giudicare su queste affermazioni, naturalmente, e sono abbastanza sicuro che tra teoria della relatività e relativismo morale i rapporti siano un po' meno diretti di quanto suppone l'illustre collega, anche perché Einstein usava quel termine in un senso piuttosto specifico e non mi sembra neanche che essa abbia influito granché sui progressi della tecnologia, ma forse mi sbaglio. Non credo neanche che sia esatto dire che quella teoria, che indubbiamente ha cambiato i modelli della fisica, abbia per questo cambiato automaticamente il mondo. E per cambiare il mondo io ho sempre creduto che ci voglia dell'altro e che in quel cambiamento siamo impegnati ciascuno nel suo piccolo, tutti noi. Ma le classifiche sono classifiche, le classifiche dipendono dai criteri in base a cui le si formulano ed evidentemente chi ha formulato quella di Time, quella che vedeva Einstein in testa come uomo del secolo, voleva soltanto sostenere che la cosiddetta scienza pura, quella che una volta si definiva la scienza teoretico-conoscitiva, rappresenta un'attività altamente caratteristica del secolo testé trascorso e che Albert Einstein ne resta l'esponente più conosciuto e caratteristico. E su questo credo che nessuno lo possa smentire. Però è strano. È strano perché Einstein potrà aver avuto un ruolo essenziale in quel senso nel cambiare il mondo, ma è poco ma sicuro che i suoi sforzi per cambiarlo in un altro senso, su un piano che avesse per l'umanità delle conseguenze un po' più tangibili, non hanno avuto tutto quel successo, Einstein ha dedicato la seconda parte della sua vita, oltre che a cercare di formulare quella teoria generale del campo unificato che lo ha illuso sempre, l'ha dedicata a propugnare una visione disarmata dei rapporti internazionali, a sostenere, a costo di feroci sottolineature autocritiche, un pacifismo radicale a proposito del quale nessuno gli ha mai dato la minima tra. È morto, poveretto, è morto nel 1955, onorato e isolato, inchiodato ai suoi risultati scientifici del 1916 e assolutamente convinto del fatto che il mondo che i posteri si preparava, che poi il nostro mondo, non avesse in sé proprio niente di bello. E da un certo punto di vista la vita di questo uomo del secolo è la storia di un grande e patetico fallimento. D'altro canto è interessante vedere chi vi è accomunato nella classifica di Time. E accanto ad Einstein figurano in seconda e terza posizione Franklin Delano Roosevelt e Mahatma Gandhi. L'uno perché avrebbe fatto trionfare la democrazia sul fascismo e sul comunismo. L'altro per aver legato indissolubilmente la lotta politica alla difesa dei diritti civili. Due figure degne d'onore, sicuramente, che è giusto onorare, ma senza dimenticare che Roosevelt, che a dire il vero con il comunismo si alleò, non è che contribuì tanto alla sua sconfitta, col comunismo si alleò anche se vestiva i panni piuttosto inquietanti di Stalin, ma non è questo il problema. E Roosevelt credeva in una democrazia fondata su quel tipo di intervento dello Stato nell'economia e su quelle forme organizzate di solidarietà sociale di cui il pensiero unico dominante oggi si fa le più ampie beffe, e considerando le anticaglie ideologiche di cui quanto prima ci libereremo tanto meglio sarà. E quanto ai diritti civili per cui Gandhi ha dato effettivamente la vita a povero uomo, alzi la mano chi ha il coraggio di sostenere che questo secolo ne ha visto la trionfale affermazione, in India o altrove. Lo stesso Stato creato dai seguaci del Mahatma è tutto fuorché quella realtà laica, disarmata, non violenta, multicomunitaria, tollerante che egli auspicava.